Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Vi riporto un brano che ci sarà molto utile nella discussione di oggi. Inizia così. In questo tempo il contesto nazionale vede crescere piuttosto la sfiducia nella possibilità di un buon governo della Civitas, capace di raccordare qualità dei servizi e giustizia. La crisi degli ultimi anni ha accentuato la percezione dell'iniquità di una forma economica nella quale tanti faticano a trovare la possibilità di lavorare e vivere in modo dignitoso. Il brano continua. È un clima che trae alimento da numerosi comportamenti personali e pubblici insofferenti nei confronti della responsabilità, ma che contribuisce a sua volta a diffonderli. Gli inaccettabili casi di corruzione, così spesso al centro dell'attenzione dei media italiani, testimoniano della crescente diffusione di un uso strumentale della cosa pubblica. La crisi che viviamo nasce anche da qui. Il brano conclude. Sono realtà che contribuiscono altresì all'erosione di quel tessuto di valori condivisi che ha consentito il consolidamento e la crescita della comunità nazionale. Ciò che fa problema è piuttosto l'emergere di una frammentazione orientata alla contrapposizione e alla demonizzazione dell'alterità. È come se fossimo divenuti stranieri gli uni agli altri. Quello che vi ho appena letto non è un bollettino pessimistico di qualche remoto sito web, ma le parole con cui si apre il documento per una rinnovata etica civile, una proposta della Fondazione Lanza, prodotto in occasione del secondo forum nazionale di etica applicata che si svolge il 21 e il 22 marzo a Padova. Abbiamo già discusso la scorsa settimana con il segretario generale della Fondazione, Lorenzo Biagi, di quanto sia importante proporre una nuova e rinnovata etica civile. Oggi vogliamo capire come concretamente possa essa rivoluzionare in meglio la nostra società attuale. È in collegamento telefonico Matteo Mascia della Fondazione Lanza, specialista in istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. La settimana scorsa assieme al professor Biagi abbiamo parlato di etica civile, ne abbiamo dato una definizione. Adesso vogliamo un po' entrare nei campi di applicazione di questa etica civile che proponete come Fondazione Lanza e che discuterete all'interno del forum. In quali campi è più urgente proporre questa nuova e questa rinnovata etica? Beh, indubbiamente il tema è un tema che ha a che fare con la società nel suo insieme, no? Nel senso che questa questione del senso civico, della convinzione guida del nostro agire, in qualche modo interroga tutta la società nel suo insieme. Poi, se andiamo a vedere, come dire, dove c'è più urgenza, indubbiamente balza all'occhio la dimensione della politica, assolutamente, no? Cioè dei comportamenti per un uso strumentale della cosa pubblica. Però un altro ambito è sicuramente l'ambito economico, adesso pensiamo alle banche, no? A questa questione dei derivati, insomma di un degrado, di una crisi economica che è derivata anche da comportamenti assolutamente incivili da parte di chi governa queste istituzioni e queste realtà. Poi via via però, come dire, non so, penso ad alcune corporazioni che anche nel nostro paese in qualche modo tendono a svolgere ruoli di conservazione, quindi di bloccare le riforme. Penso infine, come dire, alle scelte più, come dire, anche personali e individuali, insomma c'è un individualismo autocentrato che oggi ha portato in qualche modo a lasciare ai margini quella che è l'appartenenza a una comunità. Ecco, quindi ricostruire il tessuto civile di una comunità ha degli ambiti, ma poi in qualche modo coinvolge e interroga la società nel suo insieme. Ho in mano il documento, il manifesto di questo forum dell'etica civile e vedo che nel documento, soprattutto nel documento, si è cercato di valorizzare questo termine civile anche in riferimento alla civitas, alla città come metafora e come idea stessa dell'espressione del civile. In che modo possiamo pensare e direi anche ripensare alle nostre città e alla nostra idea stessa di città? Beh, intanto perché la città? Perché le città sono il luogo di vita delle persone, cioè il dato di fatto, il dato di realtà di questo ventunesimo secolo è che, parlando dell'Europa, dell'Unione Europea, l'80% della popolazione vive nelle città. A livello globale abbiamo mai superato il 50%, quindi la città come luogo di vita, e lo sarà sempre di più. In questo senso la città diventa, come dire, la metafora del luogo della convivenza, no? E quali sono gli ambiti su cui anche qui dobbiamo lavorare? Ma credo che la città diventa il luogo dove, cioè l'etica civile rilancia un campo in cui c'è il luogo dove si vive bene. Cosa vuol dire vivere bene nelle città oggi nel ventunesimo secolo? Indubbiamente ripensare alcune forme, no, della città, la struttura urbanistica, ripensare la mobilità, ripensare i servizi. Qui la grande sfida è la città sostenibile, no? La città, come dire, che sa rispondere ai bisogni delle persone che ci vivono, ma al suo tempo sa anche in qualche modo mantenere e costruire le risorse per far vivere bene chi verrà domani. La città però oggi è anche la città intelligente, dove si mettono in interazione quelle che sono le nuove tecnologie che consentono effettivamente una miglior vita buona con come dire, le questioni legate all'ambiente, le questioni legate ai servizi sociali e quant'altro. Però la città richiama anche, come dire, proprio perché è il luogo di vita delle persone, nuove forme di partecipazione. In qualche modo la città dove si vive bene è una città che chiede ai cittadini maggior corresponsabilità. Una città che è, come dire, un luogo che va oltre, se vogliamo, una democrazia delegata per costruire una democrazia partecipata e deliberativa, dove appunto i cittadini sono coinvolti attivamente nella gestione o nella co-gestione dei beni comuni. Questa è, secondo noi, una città in cui, come dire, si esprime un'etica civile nuova. Bene comune, ha parlato di bene comune e di beni comuni. Questa nostra rubrica è ormai in radio da quasi 15 mesi, si richiama bene comune, bene di tutti, parliamone. Tra bene comune e beni comuni, qual è la sua definizione di bene comune e quali le applicazioni più urgenti di tale valore? Il bene comune è, in qualche modo, cioè, se penso un po' a Gaudium et Spes, insomma, la citazione che il bene comune è l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono ai gruppi come ai singoli membri di raggiungere, no, la propria perfezione più pienamente e più speditamente, quando penso al bene comune penso a, come dire, a quelle condizioni che consentono alle persone di esprimere la propria dignità e di avere, come dire, esercitato i propri diritti. Quindi il bene comune, nella mia visione, è il contesto che consente a tutte le persone di vivere bene e di avere di poter esercitare il proprio diritto pienamente, i propri diritti, che sono diritti ovviamente di carattere spirituale, ma anche di carattere materiale, ma anche di carattere relazionale. Quindi questo è, penso che sia il tema centrale. Da questo punto di vista, ecco, l'aspetto che io vorrei sottolineare di più sul fronte dei beni comuni, del bene comune, è in qualche modo la condizione, ciò che oggi condiziona maggiormente il raggiungimento del bene comune, ed è la problematica ambientale, la crisi ecologica. Per certi aspetti noi potremmo dire che la crisi ecologica mette a rischio l'intero corredo dei diritti umani, delle persone che oggi vivono sul pianeta e delle future generazioni. In questo senso è forse l'urgenza principale di riaggiornare o comunque di rivalorizzare il tema del bene comune, avere una, come dire, un orizzonte più ampio. Il bene comune in qualche modo deve allargare la sua visione per tenere in sé il rapporto che c'è tra uomo e la natura, tra l'uomo e le risorse della natura. Ecco, ne parleremo tra pochissimo anche di queste tematiche, ci fermiamo solo qualche istante di pausa. Il bene di tutti, parliamone. Addormentavo se non avevo certe favole fantastiche, e la mattina dopo trovavo il mondo ancora mio. Per poco non mi confondevo se vi vedevo ancora pronti per discutere, e mi sembrava un gioco chiedere sorridendo poi: datevi un bacio dai, e e andavo via, ma mi faceva compagnia ogni parola che sentivo pronunciare a casa mia. E avevo già tutte le mie curiosità, ma non sapevo di dolori, poesie, difficoltà. Non avevo limiti e parlavo agli angeli. Non vi comprendevo se dicevate che domani sarei stato io quello che se ne andava, e intanto il mondo accanto a noi cambiava. Se vi giudicavo, usavo il metro dell'amore e della logica, e intanto mi aspettava la grande confusione che la vita avrebbe fatto in me. C'è un giorno poi che non è tutto come vuoi, tra le persone che non possono restare più con noi, e senti già crescere dentro un'ansietà per non sapere immaginare il peso della realtà. Ma non ci sono limiti per parlare agli angeli. Qualcuno ascolta. Ascolta. Blu Radio Veneto. Il bene di tutti. Parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori al bene di tutti parliamone, siamo in collegamento con il professor Matteo Mascia e stiamo parlando di bene comune, stiamo parlando di etica civile in occasione del secondo forum dell'etica civile che si terrà qui a Padova il 21 e 22 marzo. Grazie professore per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi invitato. Abbiamo parlato di ambiente, abbiamo parlato di bene comune, ma nell'etica civile qual è il ruolo del dialogo? Lei prima ha parlato che nelle smart cities, nelle città intelligenti, il cittadino è chiamato a dialogare, chiamato a concorrere per anche il governo della Civitas, ma il dialogo che funzione ha? Il dialogo dentro un contesto di una nuova etica civile, ma nel contesto di una vera convivenza, il dialogo è in qualche modo la modalità in cui le persone e le istituzioni si esprimono, quindi è il cuore in qualche modo di una etica civile, la capacità di rapportarsi, di ascoltare, la possibilità, capacità di ascoltare ma anche di saper, come dire, poi fare sintesi delle varie posizioni che emergono, può avvenire solamente attraverso un dialogo che è un dialogo in cui le persone si ascoltano e comprendono le differenti punti di vista che portano. Il dialogo però è anche l'elemento fondamentale per, come dire, un apprendimento cooperativo. L'etica civile, in un tempo come quello che stiamo vivendo, di grandi problematicità, di grande complessità anche nel ricercare le soluzioni ai problemi che abbiamo di fronte, impone questa modalità di lavoro, un apprendimento cooperativo in cui in qualche modo è attraverso l'azione comune, la riflessione la comunità trova le risposte o comunque individua dei possibili percorsi di risposta ai problemi che abbiamo di fronte. Prima abbiamo sentito parlare di smart cities, di ambiente, come si coniuga questo discorso con i nuovi stili di vita? Ma anche qui, come dire, le sfide che abbiamo di fronte io le vedo su più fronti su cui siamo chiamati. Certamente c'è una società che è una società plurale, pluralista dal punto di vista culturale e religioso, e quindi lo stile di vita è uno stile, come dire, che deve essere aperto all'accoglienza dell'altro, alla ricerca dei punti di incontro e della conoscenza di quelle che sono le ricchezze che ogni cultura porta con sé, nella ricerca poi di un percorso che è attraverso un dialogo. Quindi un primo elemento di stili di vita nuovi sono stili di vita che sanno accogliere, che sanno, come dire, ascoltare e valorizzare la diversità. Un secondo ambito strategico è legato ai temi ambientali ancora, e cioè un nuovo stile di vita è uno stile di vita che consuma meno natura, no? Che inquina di meno, e quindi è uno stile che chiede una condivisione di alcuni beni. L'ambito strategico, per esempio, la condivisione di beni come l'auto, per cui non più l'auto di proprietà ma l'auto condivisa, il car sharing, no? Oggi per certi aspetti anche sta nascendo la sharing economy, no? L'economia condivisa, che ha a che fare per esempio con l'abitazione, con l'auto, con gli stessi, se vogliamo, modalità degli acquisti. Pensiamo ai gruppi di acquisto solidale dove si condivide l'acquisto di alcuni prodotti, no? Questo però, la condivisione è un elemento fondamentale, ma che non può nel suo tempo venire meno con la sobrietà, cioè con la riduzione dei beni che servono alla vita buona. Oggi credo che un elemento fondamentale è quello che è evidente, che per quanto beni abbiamo, non abbiamo un miglioramento progressivo della nostra vita. Dobbiamo incominciare a pensare a valorizzare la vita attraverso, come dire, almeno una riduzione dei beni materiali, per invece aumentare quelli che sono i beni culturali. Come dice la Costituzione, l'elevazione spirituale anche delle persone. Certo, la dimensione della sobrietà non vuol dire solo meno, ma anche più. Vuol dire meno beni materiali, ma vuol dire più beni spirituali, più beni culturali, più, come dicevo prima, anche impegno civile all'interno di una comunità. Nel documento, oltre che di ambiente, di politica, parla anche di salute. In che modo la salute è vista come bene comune? Tantoni, i beni comuni sono quei beni che, per ragioni di carattere fisico, i beni naturali, di carattere istituzionale o altro, possono essere raggiunti solamente se vengono vissuti insieme da parte della comunità. Ora è chiaro che il bene salute insieme al bene vita sono beni comuni fondamentali, perché il loro possesso rende poi possibile la fruizione di altri beni, no? Di tutti gli altri beni, se pensiamo alla vita, ma alla stessa salute, perché la salute ha a che fare con la persona in relazione con una comunità. Pensate o pensiamo alle vicende dell'Acna di Cengio, pensiamo alle vicende, no, di Taranto e alle vicende dell'amianto, dove il rapporto del lavoro-salute evidenzia come non si può pensare alla salute come elemento strettamente individuale. La salute è un elemento che ha a che fare con l'essere parte di una comunità. In questo senso, come dire, la dimensione della salute è un bene fondamentale, un bene comune fondamentale. Se lo guardiamo poi ancora più oltre, pensiamo alla salute in termini per le future generazioni, pensiamo al discorso del patrimonio genetico, che rischia di essere, attraverso la manipolazione della biomedicina, un elemento di grande rischio per la salute delle future generazioni. In questo senso, quindi, credo che il tema salute è un tema che c'entra pienamente nel rapporto del dialogo tra etica civile e società. Bene comune, bene comuni, una serie di indicazioni che possono essere prese e interpretate, penso alle smart cities, penso all'ambiente, penso anche a una maggiore attenzione ai temi della salute legata al lavoro. Ma come vede il futuro per il nostro paese? Siamo dentro una crisi globale e strutturale. Siamo dentro una crisi che probabilmente è una crisi multipla, perché poi è una crisi economica, una crisi ecologica, una crisi istituzionale di governance. Nello stesso tempo, pur a fronte di questo, cerco di leggere la crisi come occasione di cambiamento, quindi come opportunità di cambiamento. La crisi ci consente di vedere i limiti di un percorso che fino a qui è stato fatto, e ci permette di vedere anche le possibili risposte e le soluzioni. E i cristiani possono avere un ruolo in questa ripartenza, in questa trovare le soluzioni? Io credo assolutamente di sì. Io ho in mente sempre un'espressione di Giovanni Paolo II legata ai temi ambientali, ma che può ovviamente essere allargata, e che dice che i cristiani devono essere testimoni credibili di una conversione ecologica. Allora, ecco, questa dimensione della testimonianza per i cristiani credo che sia la chiave di volta su cui lavorare. E nel tempo dell'abbondanza, che è quello che abbiamo alle nostre spalle, deve essere seguito da un tempo della sobrietà e della responsabilità, dove questa sobrietà e questa responsabilità però in qualche modo corrispondono e si accompagnano con una vita buona, con una vita migliore, cioè è possibile vivere meglio con meno, e i cristiani possono essere testimoni a partire dalla dimensione della loro identità, che è prima di tutto un'identità spirituale, no, di credenti, possono effettivamente offrire quello sguardo sulla vita buona e per il XXI secolo. E auspichiamo che sia così, anche grazie ai vostri sforzi come Fondazione Lanza. E ricordo il secondo forum nazionale di etica applicata, che si svolgerà proprio qui a Padova il 21 e il 22 marzo. Grazie professore per essere stato con noi. Grazie a voi, vi aspetto al forum. Grazie. Ci troveremo nuovamente, carissimi ascoltatori, la settimana prossima sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Potete riascoltarci grazie al nostro podcast. Per contattarci mandateci una mail a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Canton è tutto e alla settimana prossima, che la sarà la settimana santa. Grazie. Avete ascoltato Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.